www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il sistema di ventilazione non riesce mai a dare una bella rimescolata all'aria, Kappa e Drago hanno a cuore le sorti finanziarie della fabbrica di polli. Eccomi qua. Amministratore, ci sono voci molto preoccupanti che riguardano i vertici della fabbrica di polli USA. No, sembra USA che, più che USA, World, però based in London. Sembra che, insomma, abbiano fatto saltare la testa quasi in cima alla piramide. Non è che poi l'effetto domino? Ma io l'effetto domino, francamente, sono abituato a gestirlo. Quando nasce una situazione per cui si pensa che possa arrivare l'effetto domino, io metto in pratica la mia tattica, che è l'effetto slalom, capito? Quindi comincio ad andare a curve repentine in mezzo alle pedine che cadono e arrivo al traguardo prima che cada l'ultima. È una tecnica che, insomma, negli anni si impara. La fabbrica di polli. Ho capito, ma io sono qui, no? Ma che posso fare? Ehi, pollo in sbattimento. Sei ancora dietro alla questione della nave ancorata in Brasile che non parte, i documenti. Guarda, non ne parliamo. Oh, signore. Eh no, Cosa? I coccoletti che devo far entrare qui in fabbrica adesso si sono messi a cantare e non smettono più. Vabbè, sono cantanti. Ho capito, il capitano se ne vuole disfare adesso, eh? Cioè, come? E come? Come fanno in mare, no? Li legano l'incudine alle zampe e li buttano giù. Ma scusa, ma sono quattro artisti. Allora? Se cantano è perché sanno fare solo quello. Ho capito, io faccio il muratore, vado sulla rena e spacco tutto allora. Ma no. E come no? Insomma. Comunque l'alternativa è spiumarli. Vabbè. E poi fare lo spiedo. Ma i coccoletti sono capitano, ma sono piccoli i coccoletti, infatti. Hanno pochissima polpa. Tutte cosa ossa, fai allo spiedo? Sì, ma guarda che lì in Brasile sono dei gandula. Quelli si mangiano anche le cavallette, eh? Vabbè, forse in Amazzonia sì, credo di sì. Ah, ecco, vedi? E vedi che ho ragione io. Vabbè, Pollo, perché tu invece se vedi una bella cavalletta succulenta la lasci lì in pace? Vabbè, ma cosa c'entra? Io sono pollo, no? E quindi il mio istinto di pollo mi spinge a osservare bene la cavalletta da lontano. Vuoi avvicinarmi piano piano, no? Drago, eccola lì la cavalletta. Drago, fai piano. Silenzio però. Scusa. Osservarla per una frazione di secondo. E poi tanti. Abbasso la testa ed è una beccata e me la butto in bocca, no? Quindi vedi che te la mangi, magari pure buona. La cavalletta? È deliziosa. Ma sapete che sarebbe arrosta? Ma i cocoriti. Infatti. Ma chi se ne frega dei cocoriti, no? Ma come? Intanto questi venivano qua per cantare. È vero? E poi però lo sapete anche voi come andava a finire, no? Che arrivavano e episcopavano tutte le galline della fabbrica. Ma no! Ma va! Quelli se ne stavano lì tutto il giorno in giro con lo scooter. E poi la sera si attaccavano al telefono a chiamare le coccolite rimaste a casa. Anzi, vi dirò di più. Cosa? No, niente. Basta così. Va sullo scooter coccorito, va la cabeza triangular, va consegnare il manoscritto, è il cocorito de Milan. Quanto le manca cocorita, va nel phone center a chiamare, e pende il dipendio d'una vita, convincer cocorita a far la puta qui a Milan. In the middle of nowhere. la fabbrica di polli. Amministratore delegato, lei ha teorizzato l'effetto slalom per fronteggiare l'effetto domino causato dalla rimozione del grande capo assoluto della fabbrica di polli. Però noi abbiamo un altro suggerimento, vero capo? Oltre all'effetto slalom le suggerirei un nuovo tema e un nuovo pure principio, l'effetto. Che è l'effetto... Amministratore, il rumorismo ha una... Cosa ne dice dell'effetto chilometro lanciato? Cioè lei si mette a uovo e va dritto contro l'obiettivo. Con la tutina e il casco, esatto, aerodinamico. C'è un rischio però, che se un topo mette la testa fuori dalla tana mentre tu stai passando a 400 all'ora con gli sci, ti sfracelli. Cappa, sei ancora giovane, sei ancora troppo giovane, vedi? Ma no, amministratore, sono un po' attratto dalla tutina. Aderente. Quella lì puoi metterla anche... mettere in un sci se vuoi, Ma con gli scarponi e il casco e tutto, no? Però magari... Bello toglierli. Nel club privé. Con gli scarponi e il casco. Sì. Sai quante volte in montagna si va nel club privé vestiti da sci? Al mare si va nel club privé vestiti da sci. In campagna si va nel club privé vestiti da sci. Sì, c'è poi il guardaroba. In studio di registrazione si va nel club privé vestiti da sci. Insomma, nel club privé si va vestiti da sci. È l'effetto slalom, questo è il principio dell'effetto slalom. La sciolina. Administrador, delegado, somos gratos que cada dia nossa fábrica é carnaval. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Musicoterapia è la parola chiave, Drago. Musicoterapia. Sei in sbattimento? Musicoterapia. Sei nervoso? Musicoterapia. Bravo, Drago. Hai fame? Musicoterapia. Bravo, bravo. Sei disoccupato? Vabbè, musicoterapia. Disoccupato. Che suonare l'ukulele. Funziona. Ma no, è una terapia solo per te, Kappa, perché per chi ti ascolta invece non lo hai di certo. Ma non è vero. No. Se tu ti abbandoni alle vibrazioni suadenti delle corde dell'ukulele, Drago, potresti ritrovarti fianco a fianco di, non so, Marilyn Monroe. In quale film? E lo sbattimento se ne va. Che film è? A qualcuno piace caldo. Cosa fai? Quiz adesso? No, comunque Marilyn Monroe proprio non la vedo, perché quello perché? Che vedo sei tu con un chitarrino minuscolo, che tu sei così grande, ti contorci come Carlos Santana per suonare sta roba qui. Altro che Marilyn. Vedere e sentire te lo fa aumentare lo sbattimento. Ma no, canta con me. Cosa canto? Sentilo Büchner come si lamenta. Poi ci credo, tra il tuo ukulele, il fatto che aveva sempre la febbre, vabbè, il ma termometro... Ma scusa, Drago, se noi siamo davvero dentro Georg Büchner, allora cosa vuol dire? Che adesso sentiamo dall'interno quello che lui sta dicendo in questo momento all'esterno nella sua vita. Ma come in questo momento? Ma no. Guarda che Büchner è morto 170 anni fa. Ma cosa vuol dire? Ma il tempo non esiste. Per noi è il 21esimo secolo, ma per l'organismo che ci ospita, e cioè la fabbrica di polli, e cioè Büchner, è il 1830 o giù di lì. Dici? Ma certo, ma l'hai letto Asimov? L'hai letto Bergson? L'ha letto Einstein. Einstein. Perché anche lui diceva che Büchner era una fabbrica di polli. Ecco qui, professor Albert Einstein dice che la fabbrica di polli è un organismo vivente e che con grande probabilità relativa appartiene a Georg Büchner. Che cosa succederà adesso? Georg Büchner e la fabbrica di polli sono veramente la stessa entità? E se sì, come cambieranno le cose nella fabbrica? Ops, rettifico. Dentro Büchner, adesso che ne abbiamo la consapevolezza. Non impazzite pensandoci. Aspettate fino a domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo drammaturgico allestimento del... La fabbrica di polli produce... Non chiude... Fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.